metodi. Son io costretto la gioia funestarti. Come? Oddio, favellar non possio, no forza tanta in me non è. Spiegati. Orrendo, orrendo arcano misera, udrai. Lascia, sì, lasciami tacer. Parla, parla. L'infondo. Ubbidirò. Leicester. Leicester. Ha vinto il nodo coniugal. Che parli? Il verre. Possibile. Ostaggi sotto finte spoglie la sua sposa si asconde, il compagno germano, ambi son figli. Prosegui, ahimè! Mi manca dir la voce. Figli di chi? Si nuoce il mio parlare. Di Lippo Vero, eterno esempio